Ventiduesimo canto del Purgatorio, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, ventiduesimo canto. Già era l'angel dietro a noi rimaso, l'angel che n'avea volti al sesto giro, avendomi dal viso un colpo raso. E quei c'hanno a giustizia lor disiro, detto n'avea beati, e le sue voci constituunt, senz'altro, ciò forniro. E io più lieve che per l'altre foci mandava, sì che senza alcun labore seguiva in su gli spiriti veloci. Quando Virgilio incominciò, amore, acceso di virtù sempre altro accese, pur che la fiamma sua paresse fore, onde dall'ora che tra noi discese nel limbo dello inferno giovenale, che la tua affezion mi fe palese, mia benvoglienza in verso te fu quale, più strinse mai di non vista persona, sì ch'or mi parran corte queste scale. Ma dimmi, e come amico mi perdona, se troppa sicurtà m'allarga il freno, e come amico mai meco ragiona, come poté trovar dentro al tuo seno loco avarizia, tra cotanto senno di quanto per tua cura fosti pieno? Queste parole Stazio mover fenno un poco a riso pria, poscia rispose: ogni tuo dir d'amor m'è caro cenno. Veramente più volte appaion cose che danno a dubitar falsa matera, per le vere ragion che son nascose. La tua dimanda tuo creder m'avvera, esser chi fossi avaro in l'altra vita, forse per quella cerchia dov'io era. Or sappi ch'avarizia fu partita troppo da me, e questa dismisura migliaia di lunari hanno punita. E se non fosse ch'io drizzai mia cura, quand'io intesi là dove tu chiame, crucciato quasi all'umana natura, perché non reggi tu, o sacra fame, dell'oro l'appetito dei mortali? Voltando sentirei le giostre grame. Allor m'accorsi che troppo aprir l'ali potean le mani a spendere, e pentemi così di quel come degli altri mali. Quanti risurgeran coi crini scemi per ignoranza che di questa pecca toglie il penter vivendo e negli stremi? E sappie che la colpa che rimbecca per dritta opposizione alcun peccato, con esso insieme qui suo verde secca. Però, s'io son tra quella gente stato, che piange l'avarizia per purgarmi, per lo contrario suo m'è incontrato. Or quando tu cantasti le crude armi della doppia trestizia di Giocasta, disse il cantor de bucolici carmi, per quello che cliò teco lì tasta, non par che ti facesse ancor fedele la fede, senza qual ben far non basta. Se così è, qual sole o quai candele ti stenebraron sì che tu drizzasti poscia di retro al pescator le vele? Ed egli a lui: tu prima m'inviasti verso Parnaso averne le sue grotte, e prima presso Dio m'illuminasti. Facesti come quei che van di notte, che porta il lume dietro e sé non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. Quando dicesti: secol si rinnova, torna giustizia e primo tempo umano, e progenie scenda da ciel nova. Per te poeta fui, per te cristiano, ma perché veggi mei ciò ch'io disegno, a colorare stenderò la mano. Già era il mondo tutto quanto pregno della vera credenza seminata per i messaggi dell'Eterno Regno. E la parola tua sopra toccata si consonava a nuovi predicamenti, ond'io a visitarli presi usata. Vennermi poi, parendo tanto santi, che quando Domizian li perseguette, senza mio lagrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, io li sovvenni, e i lor diritti costumi fer dispregiare a me tutte altre sette. E pria ch'io conducessi i greci a fiumi, di Tebe poetando, ebb'io battesmo, ma per paura chiuso cristian fumi, lungamente mostrando paganesmo, e questa tepidezza il quarto cerchio cerchiar mi fe più che il quarto centesmo. Tu dunque, che levato hai il coperchio che m'ascondeva quanto bene io dico, mentre che del salire avem soverchio, dimmi dov'è Terrenzio, nostro antico, Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai, dimmi se son dannati e in qual vico. Costoro e Persio e io e altri assai, rispuose il duca mio, siam con quel greco che le muse lattar più ch'altri mai, nel primo cinghio del carcere cieco. Spesse fiate ragioniam del monte che sempre ha le nutrice nostre seco. Euripide Venosco e Antifonte, Simonide, Agatone e altri piue, greci che già di lauro ornar la fronte. Quivi si veggion delle genti tue Antigone, Deifile e Argia. E Ismene sì trista come fue. Vedeisi quella che mostrò l'angia, evvi la figlia di Tiresia e Teti, e con le suore sue dei Damia. Tacevansi ambedue già li poeti, di novo attenti a riguardar d'intorno, liberi da saliri e da pareti. E già le quattro ancelle eran del giorno, rimase a dietro, e la quinta era al temo, drizzando pur in su l'ardente corno. Quando il mio duca, io credo ch'a lo stremo, le destre spalle volger ne convegna, girando il monte come far solemo. Così l'usanza fu lì nostra insegna, e prendemmo la via con men sospetto, per l'assentir di quell'anima degna. Elli givan dinanzi, e io soletto di retro, e ascoltava i lor sermoni, ch'a poetar mi davano intelletto. Ma tosto ruppe le dolci ragioni un alber che trovammo in mezza strada, con pomi a odorar soavi e buoni. E come abete in alto si digrada, di ramo in ramo, così quello ingiuso, credio, perché persona su non vada. Dal lato onde il cammin nostro era chiuso, cadea nell'alta roccia un liquor chiaro e si spandeva per le foglie suso. Li due poeti all'alber s'appressaro, e una voce per entro le fronde gridò: di questo cibo avrete caro. Poi disse: più pensava Maria onde fosser le nozze orrevoli e intere, ch'a la sua bocca cor per voi risponde. E le romane antiche per lor bere contente furon d'acqua, e Daniello dispregiò cibo e acquistò savere. Lo seco il primo, quant'oro fu bello, fe savorose con fame le ghiande, e nettare con sete ogni ruscello. Mele e locuste furon le vivande che nodriro il Batista nel diserto, perché egli è glorioso e tanto grande, quanto per lo Vangelio v'è aperto. Fine del 22° canto del Purgatorio.